scrivo una canzone con poche parole ma belle, un po' quello che ho nella mente sono uscite dal cuore. Non lo so se ho fatto bene, ma lo dovevi sapere. Adesso apri bene le tue orecchie, perché vanno delle cose che potevano rivelarsi con emozione, carezze e baci. Poi prenderò dolcemente la tua mano per poter partire molto lontano con i nostri sogni che spero sono uguali, perché io adesso ti amo. Ragazza, questo ti canterò ogni giorno, sempre un po'. Se ti incontrerò nella strada te lo ripeterò, se mi innamorerò te lo imparerò, giorno dopo giorno ti amerò tanto tanto tanto, finalmente ti conoscerò meglio, poiché cambierò il ritornello e mi dirai, poi mi dirai, di te non mi scorderò mai. Sai, penso solo a te di mattina, di sera, sempre. Solo quando dormo non ti penso più, ma come non vado a letto esisti ancora tu, cara signora, una volta in più, che i miei occhi non possono vedere il tuo bello viso e corpo da te, il tuo cuore per ora è di un altro, ma se il fuoco in te si spegnerà sappi che io sarò là a guardarti, a parlarti, a aiutarti, ad amarti. Ragazza, questo ti canterò ogni giorno, sempre un po'. Se ti incontrerò nella strada te lo ripeterò, se mi innamorerò te lo imparerò, giorno dopo giorno ti amerò tanto tanto tanto, finalmente ti conoscerò meglio, poiché cambierò il ritornello e mi dirai, poi mi dirai, di te non mi scorderò mai. Questo ti canterò, ti amerò tanto tanto tanto, finalmente ti conoscerò meglio, poiché cambierò il ritornello e mi dirai, poi mi dirai, di te non mi scorderò mai.